Wender e Fabio Alisei presentano. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Il tempo è una strada da percorrere in sensi inversi. Il tempo è un filo di seta che cuce azioni e ricordi in una trapunta imperfetta. Il tempo è una moneta da guadagnare o da spendere. Ma dietro ciò che siamo convinti di acquistare liberamente si nasconde un burattinaio, un manovratore occulto, un demiurgo che direziona le nostre scelte. Un demiurgo che direziona le nostre scelte. La pubblicità. Ehi, che pulito! Mi ci vedo. Ma che succede? Oggi ho un nuovo amico che mi aiuta, Mastro Lindo. Consumiamo il superfluo prima dell'utile, l'accessorio prima del necessario, la forma prima della sostanza, ipnotizzati da messaggi seducenti, adagiati su una musica che dà conforto. Un gusto pieno per la vita. Il caleidoscopio dei consigli per gli acquisti passa per le nostre orecchie attraverso canzoni che vendono prodotti per diventare prodotti anch'esse. Qui ci porta oggi il nostro viaggio. Musica dopo musica, spot dopo spot, prodotto dopo prodotto, in una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi. Inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. 1984. Spegnetelo, cazzo! Prendete un estintore e spegnetelo, Cristo! Il re del pop sta bruciando, capelli, faccia, vestiti. Ve l'avevo detto che quella dell'esplosione programmata era un'idea di merda e voi l'avete fatta 6 volte, cazzo! Avete fatto detonare non una, ma 6 volte quel fottuto ordigno per lo spot della fottuta Pepsi. Ci è costato 5 milioni di dollari, 1,5 milioni di dollari al secondo per avere Michael Jackson che canta Billie Jean. E adesso è lì, che brucia come un fiammifero. Di storia della musica. Don't go around breaking young girls' hearts. Yeah. And mother always. frattempo, in Italia. Ne mangio mille al giorno, vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente meglio di te. È finita. Qui, nel deserto dell'Algeria, la loro storia è finita. Lui e lei si mandano a fanculo. Lei sale sull'aereo per scappare da lui. Lui monta in auto e spinge a tavoletta per inseguirla. Lei decolla, lui sgomma. Lei lo guarda dall'alto sollevare polvere a bordo della sua Peugeot 205. Ma lui non sta andando da nessuna parte. Sta tracciando delle linee sulla sabbia. Linee che compongono una parola. La parola stronza. Sì. La loro storia è finita. È una vergogna. Such a shame. Nel frattempo, in Italia. Con un tubo e un bacio puoi dire tutto! Tubi, tubi, tubi, sì. Bacio, bacio, bacio. Gira, gira, girami. Dimmi, dimmi, dimmi. Io ti dico che ti amo. Mi rispondi, chiedimi. Hai capito che ti ho, ti ho, ti ho, ti amo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu linguaggio dei tubi, così gli altri non capiranno un tubo. 1995. Richard ha 20 anni e crede nella pace portata con le armi. Crede nella bandiera a stelle e strisce, anche se non è la sua. Crede nel corpo dei Marines, nei compagni facciati in prima linea, sotto i lampi dei traccianti che riempiono di strobo il cielo del golfo. Ci crede per 2 anni, poi gli viene da vomitare e torna a casa vivo, senza ferite sulla pelle, con una cicatrice nell'anima. Vuole cantare l'amore, vuole cambiare nome. Richard è morto in Iraq. Ora c'è solo Shaggy. Indossa un paio di Levi's ed è bombastico. Mr. Bombastic! We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lova, Lova, Lova. Now Mr. Lova, Lova, girl. Mr. Lova, Lova, Lova. Now Mr. Lova, Lova. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, bombastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Boom. What you say, girl? Smooth. E nel frattempo in Italia... esagerata. 1997. Quanto può durare un minuto? Una vita, se due sguardi si incrociano. Un istante, quando ridi di cuore. Una porzione d'infinito, quando attendi qualcosa che forse non arriverà. Un'analisi, un voto, un amore. Ma sul quadrante tondo, un minuto dura sempre un minuto, diviso in 60 identici tic. Parola di Swatch, musica di Migio. In Italia. Il sole e noi, d'estate c'è un desiderio che è un cuore di panna. Un momento tenero, questo nostro stato. cornetto Algida, cuore di panna. 1998. Non ci crede nessuno che lui, il capitano, il difensore più forte del mondo e forse della storia del calcio, guidi quella macchina. Nemmeno se indossa la maglia azzurra, nemmeno se sbaglia un gol all'ultimo minuto, nemmeno se per il suo Milan è l'anno di merda in cui si perde la finale di Champions che ancora si chiama Coppa dei Campioni. Non ci crede nessuno che Paolo Maldini guidi una pelastra, nemmeno se sotto scorrono gli Underworld. Intanto in Italia. La Polaretti Family oggi porta la sua frutta. A Polaretti Landia ce la porta proprio tutta. 2004. Che mega fica. Che cazzo di telaio. Che strascopabile cangurona. Ci credo che gira tutto intorno a lei. Con quella gonnellina, quelle tette, quegli occhi verdi, quei rollerblade da Lolita e quell'accento inglese. Non può che essere il centro dell'universo pelvico di ogni uomo italiano, che guarda lo spot, guarda la moglie spiaggiata sul divano come un'orca, ascolta la voce di Kim e passa a Vodafone, sperando che accada la magia. Nel frattempo, in Italia. Qui, un sabito. Ciccio Bello ti fa Napoli. Com'è bello Ciccio Bello a napoletano. Mamma e papà, Ciccio Bello è napoletano. Com'è bello Ciccio Bello. Sei bello con mio sole. Ciccio Bello, Ciccio Bello, hey, hey. Sei bello con me. Forse la magia non esiste. Forse non siamo davvero i piloti del nostro destino. Forse siamo pesci troppo facili da prendere all'amo. Ma in una vita volta sempre al concreto, la pubblicità ci ricorda un dettaglio essenziale del nostro essere umani: l'importanza dell'illusione. La forza che non produce merci, ma genera sogni. E quelli non si possono comprare, come i nostri scatti di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica. Prima venne Ishtar, bella e terribile, che spargeva sperma e sangue sulle porte di Babilonia. Poi venne Parvati, figlia della montagna dolce e feconda, coi seni rotondi come anse del Gange, che generò il dio con la testa di elefante. Infine giunse Afrodite, portata dalla schiuma del mare sulla sabbia di Cipro, bella oltre ogni tempo, capricciosa, lasciva, invocata da marinai e puttane. Sono le dee dell'antichità, venerate dai sacerdoti, cantate dai poeti al suono della lira. Figure divine che nei secoli si trasformano e si reincarnano per giungere a noi sotto l'ultima forma, quella di pop star. Il crononauta osserva le idee con 6 labbra del nostro tempo, 4 per dare piacere e 2 per cantare. Le divas. Voce dopo voce, eccesso dopo eccesso, canzone dopo canzone, oscillando sull'Atlantico fra l'Italia e l'America. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. Di storia della musica. . 1967, Oakland, California. Le pantere nere pattugliano le strade degli slums. cercano i suprematisti bianchi che hanno incendiato le loro case, picchiato le loro donne, negato i loro diritti, quelli di ogni essere umano. Malcolm X è morto, Luther King lo sarà presto. Ma questa volta c'è una voce che canta la loro rabbia. Una voce nera, affumicata, potente, quella di Aretha Franklin, che come loro, come tutti gli afroamericani d'America, chiede una cosa sola: il rispetto. In Italia. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. '87, Santa Barbara, California. Jaco è al top, è bad, è moonwalk, è Dio. I suoi occhi vedono solo lei, la ragazza bottonata del New Jersey, con la voce di un angelo e un disco in testa alla classifica USA da 14 settimane. La corteggia, la aiuta, la vuole sposare. Ma lei è già fidanzata con un altro, con l'uomo che la porterà sulla strada della droga e delle percosse, quel Bobby Brown che la distruggerà. Whitney Houston non sarà mai di Michael Jackson. Dice: I wanna dance with somebody. Voglio ballare con qualcuno. Qualcuno che mi ami. Ma quel qualcuno non è lui. With some. scoperto in Italia. Di storia della musica. Solo su Radio 105. Sometimes it hurts instead. Sometimes it surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Canada. René la guarda da dietro il vetro della sala d'incisione, come ogni volta da 24 anni a quella parte. La prima volta lui aveva 38 anni e lei solo 12, ma la voce era già quella del buon Dio. La voix du bon Dieu, come dicevano in Quebec. René ipotecò la casa per produrre il suo primo disco ed ora eccola lì, per una nuova avventura. Questa volta in inglese. Un tempo artista e produttore, ora marito e moglie. Già, lui non l'ha mai mollata. L'ha sollevata quando si sentiva giù e l'ha incoraggiata quando non ce la faceva più, e solo perché semplicemente la ama. E questo lei lo sa, per questo lo guarda mentre incide. Per questo Céline Dion sa di cosa parla mentre canta Because You Loved Me. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up contemporanei di storia della musica, si ferma e torna tra poco. Solo su Radio 105. Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. È il 10 agosto di un anno qualunque, è notte, una di quelle con un nome, la notte di San Lorenzo. Sulle spiagge, sui prati, sui tetti delle case, milioni di occhi stanno puntati all'insù. Piccole dita indicano invisibili scie nel buio. Il silenzio è punteggiato di brevi suoni sincopati, bisbigli, sorpresa. Si assiste al gratuito spettacolo delle meteore, graffi che infiammano il cielo, rischiarandolo come candele che attraversano un mantello di velluto scuro. Così rapidamente si incendiano, così rapidamente bruciano e si estinguono nel nulla, per sempre dimenticate. Lasciano dentro di noi un'emozione istantanea che presto sarà sostituita, come gli artisti e le canzoni che abbiamo amato per un momento e che quello successivo non esistevano già più. Oggi il crononauta naviga fra le meteore, anno dopo anno, canzone dopo canzone, lampo dopo buio, come una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. Istantanee di storia della musica. . 1979, Los Angeles. La signorina Halperin ha solo 19 anni, frequenta il college e ha un fidanzato che piace a mamma e papà. Il suo cuore, però, batte per Doug, uno spiantato che suona la chitarra in quel gruppo di capelloni senza futuro. Lo incontra di nascosto, spesso senza preavviso, come quel pomeriggio che lei indossa solo un paio di jeans e una canottiera bianca. È stretta e attillata e lascia intravedere due capezzoli piccoli e duri come mirtilli. Doug vuole farle una foto, vuole metterla sulla copertina del primo album della sua band, perché per lei ha scritto una canzone che porta il suo nome. La sua Sharona. Intanto in Italia. . 1980, New York City. È il primo minuto dopo la mezzanotte del 1 agosto 1981. All'ultimo piano del One Astor Plaza di Times Square, gli amministratori delegati di Warner e American Express osservano su torri di televisori il lancio dello Space Shuttle Columbia. Quando all'improvviso si accendono le luci e John Luck esclama al microfono: Ladies and gentlemen, rock and roll! È la nascita di MTV, il canale musicale che rimpiazzerà le canzoni con i clip, il video che ucciderà le star della radio. E sugli schermi, al posto dello shuttle, viene trasmessa questa. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Nel frattempo in Italia. . 1987, esistono brani capaci di tornarci in mente dopo soltanto pochissime note. Per Elisa. Sweet Child of Mine. We Will Rock You. La Donna Cannone. E naturalmente moltissimi altri. Bastano appena quattro note e il nostro cuore si apre. Il nostro cervello riavvia la macchina dei ricordi e il sangue comincia a scorrere più forte. Quattro note. Non ci credete? Facciamo un esperimento. Prendiamo queste quattro. visto? Bastano quattro note e avete già visualizzato un'epoca. Non c'è stato nemmeno bisogno di dire Europe, The Final Countdown. Contemporaneamente in Italia, gente di mare che se ne va. 1989, l'Olympia Stadium di Monaco di Baviera è pieno in ogni ordine di posti. Si affrontano la squadra di casa, i tedeschi del Bayern, contro gli italiani del Napoli. Ecco entrare in campo per il riscaldamento la stella indiscussa della formazione partenopea, il giocatore più forte del mondo, Diego Armando Maradona. Le casse dello stadio diffondono le note di un successo pop austriaco di qualche anno fa, mentre il pibe inizia a palleggiare. Ma cosa sta facendo? Balla. Il numero 10 argentino palleggia mentre balla a tempo di musica. È uno spettacolo sensazionale, indimenticabile. Così indimenticabile che se cerchi su YouTube Live is Life, prima ti esce Maradona e poi gli autori della canzone, gli Opus. In Italia, intanto, facciamo tutti i passi, facciamo una grande tv, non siamo tanto diversi, dai, prova a farlo anche tu. 1992, Svezia. In ogni lingua del mondo esiste una parola per descrivere le ragazze che passano da un uomo all'altro, che vanno posandosi di fiore in fiore, come api in cerca di polline. Tra tutte le definizioni, la più caratteristica è senza dubbio quella usata dai romani, che chiamano questo tipo di ragazza sarta. Nel senso che sarta dan cazzo a un altro. Anche se il concetto è simile, gli Ace of Base lo avevano raccontato con un pelo di classe in più. Invece in Italia, dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi, ora non mi va. 1993, Krista, Shonna e Wanda abitano insieme, suonano insieme e scopano insieme. Sono giovani, carine, lesbiche e aspettano Linda, la cantante, fuori da un locale di San Francisco. È lì che si devono esibire per la prima volta verso le 6, davanti a un gruppetto di hipster, bevitori di birra dopo il lavoro e bariste annoiate con la cicca in bocca. Solo che sono le 5:05 e Linda non è ancora arrivata, cazzo. Però arriva qualcos'altro, anticipato da un sibilo, seguito da un tremore, un sussulto. Le strade che si sollevano, i vetri che si rompono. È un terremoto, un cazzo di terremoto, proprio il giorno del loro debutto. E tutti si guardano in faccia e dicono: oh, che cazzo sta succedendo? Hey, what's going on? Contemporaneamente in Italia. Buena muchacha, aquí estoy. Y lo que te gusta a ti. Terapia. 1997. Adesso è il momento della classifica delle canzoni più fastidiose di tutti i tempi, a cura di Rolling Stones. Alla posizione numero 3 troviamo China Girl del Duca Bianco David Bowie. Alla numero 2, Stop Whispering dei Radiohead. E alla posizione numero 1, con ben 10 settimane di permanenza, la canzone più fastidiosa della settimana è di nuovo Tub Thumping di quei cazzi mosci dei Chumba Wamba. I get no doubt, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get no doubt, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get no doubt, but I get up again. You're contemporaneamente in Italia. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Forse non tutti siamo nati per lasciare un segno. Forse non tutti scriveremo la storia. Ma la vita è fatta anche di questo: di muri che sfidano il tempo e di notti a guardare le stelle. E di notti a guardare le stelle. Al prossimo scatto di Polaroid. Polaroid, istantanee di storia della musica. Torna domenica prossima alle 23. Alle 23. Su Radio 105. Polaroid è una produzione Zodi 105. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altre repliche e altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 Archivio Bot.